Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera e benvenuti all'appuntamento quotidiano di Radio 24 con l'innovazione. Parliamo di finanza. Il mondo della finanza infatti sta assistendo da alcuni anni alla nascita di un nuovo tipo di industria che offre servizi finanziari innovativi attraverso la rete. Parliamo della cosiddetta financial technology o fintech, che investe il mondo dei prestiti, dei contratti assicurativi, delle gestioni patrimoniali e finanziarie, persino della moneta. Una rivoluzione descritta da termini come blockchain, peer-to-peer lending, smart contract, parole chiave che è necessario conoscere per comprendere questa industria nascente che vede protagoniste centinaia di startup in tutto il mondo, a cui dedicheremo tutta la settimana di programmazione. Ogni giorno una parola chiave. E la prima è proprio startup. Sono circa 750 quelle nate a partire dal 2011 che hanno raccolto ad oggi oltre 26 miliardi di dollari e mezzo di finanziamenti. E questo è un numero emerso dal rapporto curato dall'Osservatorio Digital Finance del Politecnico di Milano, che è stato presentato alcune settimane fa. Direttore scientifico dell'Osservatorio è Marco Giorgino, che ho intervistato proprio in quella circostanza. Sentite com'è andata. Abbiamo mappato le start-up a livello internazionale, con particolare riferimento all'Europa continentale e evidentemente al mondo anglosassone. Ne emerge un quadro molto interessante per quanto riguarda l'attivismo di questi operatori, anche se a velocità alternata nel corso degli ultimi anni, dove però il mondo finanziario, il mondo della tecnologia digitale si incontrano a servizio della costruzione di prodotti innovativi per la clientela. In particolare su quali aree? Sull'area del banking, quindi va al cuore della banca questa concorrenza da parte delle start-up. Il 60% delle start-up che abbiamo censito offre servizi tradizionali di banking, di lending, di pagamento. Quindi parliamo anche di prestiti, anche di prestiti personali? Parliamo di prestiti, parliamo di servizi bancari di base, in una logica di maggiore efficienza, qualità, ma anche in una logica di trasparenza per il cliente finale. Addirittura il 95%, cioè quasi la totalità del campione, nasce per disintermediare il ruolo della banca e quindi per favorire un incrocio tra domanda e offerta senza di capitali e di servizi, senza che ci sia in mezzo un intermediario bancario. Questo penso che sia un elemento di grande riflessione per i grandi player di questo settore. Quindi stiamo parlando proprio della possibilità di far sì che Tizio presti soldi a Caio utilizzando una piattaforma che dà una serie di garanzie, ma evitando che ci sia un istituto bancario vero e proprio di mezzo, con tutti anche i suoi costi, no? Esattamente così. Annoveriamo questo tipo di soluzione in quello che si chiama ormai peer-to-peer lending, dove il lending avviene tra pari, dove c'è un forte abbattimento dei costi, dove evidentemente la transazione non può che essere di piccolo importo e dove c'è anche una fase propedeutica allo svolgimento di queste transazioni che è molto importante, quella della valutazione del rischio, perché c'è un rischio di credito. In questo senso le nuove soluzioni digitali consentono di affrontare il tema del rischio usando dei dati molto evoluti, quindi big data, e quindi arrivare a una valutazione che consente di velocizzare e rendere il più sicuro possibile la transazione stessa. Ecco, dicevamo che molte di queste startup nascono con l'ambizione di sostituirsi, diciamo, alla banca, facendo un ruolo diverso, ma comunque di disintermediare il ruolo della banca. Stiamo veramente andando verso un mondo in cui il tema del prestito, almeno quello personale che riguarda tutti i singoli cittadini, non dipenderà più dalle banche? Io credo che se le start-up riusciranno a trovare una dimensione adeguata per avere costi bassi e generare ricavi e quindi una buona marginalità, potranno avere anche uno spazio in questa arena competitiva. Invece credo che le start-up potranno essere un buon spunto per i grandi player per innovare. Quindi è molto importante che i grandi player osservino come si muovono le start-up e, se del caso, riescano anche ad integrarle, quindi a fare un'attività di scouting che consenta di far emergere i più significativi e più efficaci ed efficienti modelli innovativi da inserire al proprio interno. Ecco, oltre a questo filone del prestito dei servizi bancari di base, quali sono delle altre caratteristiche che sono molto presenti nelle start-up che si muovono nell'ambito del fintech oggi? Un certo attivismo delle start-up in tutto il mondo dei servizi di investimento, quindi delle gestioni, nel supportare i processi di investimento finanziario dei clienti, sia istituzionali sia clienti privati. E un'altra serie di iniziative l'abbiamo riscontrata nell'ambito di quelle che sono le attività di staff, che solitamente sono nelle banche. Quindi per esempio la valutazione dei rischi, oppure l'attività di supporto all'adeguatezza normativa piuttosto che alla compliance, quindi tematiche che sono magari meno centrali rispetto ai processi di business, ma estremamente importanti per lo svolgimento di un'attività finanziaria. Perché molte delle startup, diciamo, più finanziate si muovono ai margini dei sistemi regolatori? È una cosa che avete sottolineato. Abbiamo sottolineato questo aspetto perché molte startup cercano di intervenire sulle aree di inefficienza del mercato. In questo senso, per esempio un'area potrebbe essere quella del sistema dei pagamenti, dove oggi la direttiva, che peraltro è in evoluzione, non consente di essere pienamente operative a queste startup, ma con l'entrata in vigore della nuova direttiva, la PSD2, che entrerà in vigore a breve, ci sarà uno spazio di intervento che consentirà anche di essere compliant con la normativa. Cioè, non stiamo parlando di aziende che lavorano in un ambito illegale, ma che stanno magari cercando di anticipare anche alcuni cambiamenti che verranno addirittura regolamentati. Assolutamente sì, e in questo andrà valutato l'approccio che avrà il regolatore, da un lato per consentire a questi soggetti di operare, ma di non minare mai la stabilità del sistema finanziario. Torniamo in studio per darci appuntamento a domani, seconda puntata dello speciale dedicato alla fintech, seconda parola chiave sarà blockchain. Buona serata.